sul canale. Ehi, Gianmarì, buonasera. Non è tanto bella, no, la sera. E va lì, sia brutta la sera comunque. Buonasera, ben sentito. Sei a casa? Sono a casa, sono. Me ne hanno portato la tenda, però è sbagliata. Cos'è? Che me ne hanno portato la tenda? Ci ho fatto una fatica per pulire le nonghie sopra, che non la brucia per la sorpresa, che non è da. Non è sbagliato. Invece di mandarmela a caduta libera, me l'hai mandata con le braccia. Ma la tenda di dove? Di terrazzino. E allora? Me l'hanno mandata con le braccia, me l'hanno mandata invece di caduta libera. Ma da dove l'hai presa? Non l'hai presa Sassari allora? No, da Bricome l'ho presa. L'ho presa da Bricome, quella da 4 metri, a caduta. E invece me l'hanno mandata con le braccia. E io te la cambiano. Per domani, tanto sono già pronti quelli lì, mi sembra. Sì, ma devo andare di Viru che è sbagliata. Mi hanno arrecato che da con i bracci invece che è accaduta. Certo. Allora devi venire a regarmi nei guida e pigliarsi guida. Ma quelle con le braccia pieghevoli sono? E allora, sono con le braccia pieghevoli, tanto non peso a poco, io non la voglio chissà. Me l'hanno mandato chissà. Sabbia che sbagliavano. Ma non sono venuti loro a vedere. No, sono. Sono solo che chi l'ha portata è un corriere, però il fatto è che chi l'ha consegnata ha sbagliato dandogliela, anche pesa un bel puro. Certo, hanno fatto altro che sbagliare, boh. Allora la cambiano, se vogliono i soldi devono cambiare, non è pagata. No, è pagata, è tutto. È pagato anche il trasporto, pagato. So che domani mattina scendo e gli dico, guardate che avete sbagliato mandandomi la tenda, che non è quella che ho richiesto io. Questa è che mi avete mandato voi con le braccia, quella che ho chiesto io senza le braccia, accaduta. Se gli seguo i bracci, guccia 2,49, guccia. Certo, beh, anche la Gianmarì, non vi sono problemi, paesi, va. Ah, problemi non ne ve ne so, solo che me ne devi venire a riga a casa e per la civiltà. Chi dà ragione? No, ma le macchine fa una scappata, allora. Vedo un po' tutto, va. E infatti, domani mattina ci scendo e glielo dico, porto i fogli. E deve fare un altro trasporto. A regarne guida e poi si inizia. Eia. Bene mesa. E ma chi sono là di studio? Oh, oggi non l'ho sentito ancora. Sarà già in campagna. Con chi se va che fendi? Ah, mi viene fendi. Vai, serena, ma è sempre fendi. Che fa bene dentro, questa sa come scende dentro la terra. E se no dentro le ossa. Già mi sta di buttare d'ora al golfo io. No, non la maglietta, mi sta via bagavato il golfo, ma mi sta di buttare sopra la maglietta, tu che fa cullato buro. E tra l'altro dovuto punire Ruggero fa chissà dentro, chissà cattura. Fanno i fondi in mira a cattura. A che fuori, è un bugiuro. Prima te l'avevo anch'io la tenda così. Però l'ho tolta, mi sono fatto la vetrata, mi sono fatta, capito? Con due sportelli scorrevole, che è migliore, ha meno chiusa e mentre che prima mi entrava ugualmente l'acqua, mentre adesso l'acqua non entra e rimane più riservata. Ah, quello sì. Infatti anch'io ce l'ho il poggiolo di cucina chiuso. Io l'ho chiuso lo stesso il poggiolo di cucina. Questa parte invece c'ho la tenda, ci sto mettendo, la voglio libero questa parte. Qui c'è il terrazzo da una parte all'altra, così. Infatti, è un terrazzo da 4,60. Certo. No, io vado avanti, c'ho le finestre, per cui il terrazzino ce l'avevo dietro, insomma, quello l'ho chiuso e sono più tranquilli. E c'è anche più caldo in inverno, ma che prima, siccome noi avevamo le porte di quelle, in lamiera zingata, e guarnizione non ne hanno messo, entrava in cifre dappertutto, allora ho dovuto cambiare tutte le porte e le finestre, ho cambiato e finito. Almeno adesso c'è più caldo, più mi sono fatto la... ho chiuso la vetrata, capito? Cioè, non si sa più bene, là. Infatti, anche io l'avevo cambiato tanti anni fa, le porte e finestre, tutte quante, le avevo cambiate. Anche il foggio l'avevo chiuso tanti anni fa. In pubblicità l'avevo messo. E già tiene quelle. Ma io avevo tutte porte e finestre, sia in camera, sia in salone, sia in cucina, sia in cameretta, tutte porte e finestre avevo, così che entrava la corrente per tutto l'inverno, si stava male, era freddo. Allora mi sono fatto le finestre, hai capito? Sia in camera mia che in cameretta, mi sono fatto il muretto, mi sono messo la finestra. Porte e finestre sono solo in cose, in sala, perché lì ci tocca tutto il giornettone, per cui non ne ho fatto muretto, capito? Ho lasciato porte e finestre, per cui già va bene, va. E lì ho fatto lavoro, tutto ho fatto, le porte e le finestre, con le zanzariere tutte all'esterno. E come ho fatto io così, fatto anch'io così ho fatto. E purtroppo bisogna farlo mai forza, anche se no d'inverno è freddo. Già lo credo io, certo. Un attimo, il telefono sto. Sono qua. Ecco. Sono qua. È così, capito? Ho fatto un sacco di lavori qua, io prima stava male, in inverno gatto era un freddo sicuramente, si prendeva per tutto gatto, mentre invece adesso è più riservato, ci sta bene in inverno, dai. Io non credo, se sono in pubblici, isola parecchio, isola, gatta. Allora, infatti, anche per le finestre, capito? Porte e finestre, ripeto, c'erano quelle porte e la mia razzingata, cazzo, che non andavano bene nemmeno le guarnizioni, non andavano bene, se no non chiudevano. Gli avevo messo le guarnizioni, però non andava bene perché non chiudevano. Allora abbiamo deciso di cambiare tutto e ho fatto tutte le finestre. Ho preso i mattoni, mi sono fatto i muretti e ho fatto la finestra, capito? Ne ho fatto tre finestre ho fatto, così che sono in sala ci sono le porte e finestre, però lì ho fatto gli alfisti per cui aria non entra. Hai fatto bene Gio Maria, ma così no, è vero, si salti un bel si salti e non entrano spifferi per nulla. Esatto. E poi c'ho anche i condizionatori, c'ho anche tre condizionatori pure, così che sono tranquillo, io condizionatore accendo poco, magari perché accendo lassù fa bene, per cui no si sta bene in inverno, dai, in inverno si sta molto bene, in estate che c'è molto caldo, perché sono sotto tetto, per cui quando scaldano quelle piazze di cemento e i cartoni che attravanzano sembra così, ma c'è caldo, Cazzo, sì, è caldo. E purtroppo queste case sono fatte in economia, già fatte. E allora, cazzo, potevano mettere le tegole, cazzo, invece no. Aspetta, l'hanno fatto atterrare, è un macello. E il sole ci piomba quando scalda il tetto, mentre invece con le tegole rimane più riservato e c'è più, si sa più bene. Infatti, è così, il fatto che quando è senza tegole si sta male. E allora, ok. Stavo dicendo, ci sono i cacciacopertori per la bicicletta vendendo, sì? Sì, sono in plastica, sono. A voglia se ci sono. Aspetta, li trovi in tutti i posti, anche da cosa li trovi? Da Decrato, da cosa, città mercato, e in tutti i posti li vendono. Sono i negozi anche, anche il negozio che c'è in Viale Portatore ce li vende. Ah, e quello di Abugino ce li ha, sì. Via Bugino sì che ce li ha, anche lui ce li ha. Chiedegli quelli in plastica però, chiedi. Ah, in plastica sono. Non si dà mai, sempre a meglio avere disponibile anche la spara liquida, non si che eventualmente buchi, capito? Però voglio essere attrezzato, ecco, perché certo non si sa mai, a cammina appesa, poi è pesante. Ehi, ti prendi il kit, ti prendi direttamente con la borsetta, l'attacchi a Darito e prendi, per gonfiare prendi direttamente lo spray per gonfiare. Ma lo spray rovina la camera d'aria, to. No, che c'è uno spray che gonfia solo e basta, e ad aria è. Così è. Adesso vediamo un po', dai. Vediamo un po', allora, con la borsetta me la prendo, la presa senz'altro, e c'è borsetta, certo, almeno lo metto nel bauletto, e un po' presso, la pompa, gli acciaro, piccolina, così che mi manca solo il cacciapo, il copertore e la paraliquida, boom! Io ho preso tutto, ce l'ho tutto nella borsetta, è una borsetta blu che va sotto il sedile, e c'è tutto dentro, anche lo spray per gonfiare. Adesso ci faccio. Anzi, domani, se mi ricordo, ci faccio e me lo prendo per avere sempre di più. Non c'è mai, sai, la buchi e cosa gli va? Cazzo, non gioco io. Ok, bene. Giomaria, già c'è tutto, che si possa almeno avere tutto quanto appresso. Certo, che se no, ohia. Yeah. No, magari la tua è più leggera, a me ha pesato di più perché magari la batteria, non mi ricordo quanto costa quella batteria, è lunga a me. Certo, ma che pesa questa batteria? Vabbè, c'è la forcella ammortizzata pure, però adesso non pesa, ma ragione. Io non credo che pesa, meglio sempre averlo, non cosa, ma è danni, è buccato, e a Cunzalla, è tornato in appiedi, piano, invece che pusato, te ne deve durare appeso, non a Zaporeggi. Invece che da mani a Zaporeggi e te ne dovrà venire pusato. Quello che voglio, infatti, già, te lo credo. Se no, ma ci vado, me la prendo, lo credo. Ok, va bene, quello volevo sapere. Ok. Bene, chissà che entri qualcuno stasera. Stamattina acceso c'era verso mezzogiorno, c'era Franco da Sorso, dopo è entrato Claudio, ma ho fatto una bella chiacchieratina là stamattina. Oh, io stavo facendo cosa qua, poi ho finito ed era l'una manco un quarto che andava giù finito. Tra farai e tutto quanto si è fatto l'unica che cosa. Prima ci avevano fatto un medico a Margellano, poi si è mettato le poste, dopo sono dato la mia figlia portare roba, dopo si è andato in farmacia, ma tutto mangiare in giro era, a mezz'ora già era in casa, poi si è portato dai cinque fino alla una, vuoi immaginare? Va bene. Già va bene così. Certo. A voglia, tanto rimani sempre in casa. Poi io venne cosa, poi già gli varato rugani a giosso. Mi sono fatto una qualche cosa. Ogni tanto mi si fa al magazzino. Non fa niente, ma è ciò che si dice a Pugliesi, Tocchese, bene appunto, magari la bocca poteva, la bocca gava, la bocca a Tio, sono sempre vicini, tanto ammazzare un tempo, so, capito? E mi svago quando scendo io, oppure magari mi faccio due passi dietro, così, e ammazzo l'ora, capito? E infatti, è meglio sempre fare qualcosa, farvi sicuro. Grazie, comandante. Due busti, ti devo immaginare. Ehi, oggi ha giù camminato un poco, là. Ma così, fatto di ginnastica che è un poco buro. E piano piano si va di tutto. Solo che a c'è fanno questo tempo così non si può fare nulla. Oh, se no mi abbia fatto buro. Cacchi giri bicicletti, no, Catarizzo. A chi? E le strade non mi fida ancora. Anzi, so che piglia pratica, beh, la sbirata due voci giù, la pera. A pigliare un po' di pratica, capito? Che però quando fate da dire, tanto state umida, così levano, chi se ne levano, non la tocco. Oh, solo quando mette il cuvento gli esce. Tanto da un po' di pratica, allora comincio a schiaffura. Fai bene. fai bene così a Romanco, sanda e tiriroghi. In città e qualcosa ha fatto canto, ohia. Allora va a casa da Gio Vincello, che è questa va che toccava in bicicletta e poi immaginà, catta. Ma pare così, ma era parecchio, insomma un saccato d'anni che non prendevo più bicicletta, per cui non ho. Magari è diversa la questione, capito? Bisogna fare un po' di pratica per far andare a dare dritta pure, capito? Infatti, da fa così. Io due domeniche fa si sono comparato in bicicletta a Giosso, a Plattamona si è comparato. Si è comparato e è alzato piano piano. Pensa un po'. Io mi fa la pista ciclabile pure, ma non mi hai fatto la superstrada. Arrivi fino a un pezzo, poi devi andare in carriera. Ah, così è. Sarà pesantino la strada di Santo Michele o no? Ah, no, farà affari, ma sa, da voi è un bel pesante, infatti non la fate questa carriera. Però la mia è già pedaleggia, già leggerissima, leggera camminando, dai, basta pedalare in estate già è più leggera. Ma devi sempre pedalare, devi. La pedalata è più leggera, ma è sempre pedalata, devi. Ah, beh, c'è stato, io non credo. Ma sai rettilineo che tu cammina questa cosa? Un bel mini, ti sei baruccoso, piglia la piazza se la si andà, io devi stare sempre pedalenti. Sì, quello sì, perché sennò no, non cammina da sola, la devi aiutare a pedalare in bicicletta. Purtroppo, invece io farendo me la chiamo dottor Turizzini, che era tutto in farata. Un po' carino, ha già avuto qualche pezzo da strada, ma da poi ha tutto farata. A farà il bello, ma da poi a Sandi. Ma la mia pure in farata gli ha camminato giù. Ah sì, questo sì. non si carica già la batteria così. E chi dà ragione? Certo. Vabbè. Certo. Dunque. Vedremo. E vediamo un po', Marco vengo un po' d'allenamento e per cui si fa che, va. Infatti Giovanni, piano piano, è sempre andando che tu dici. Giulia. Allora, è fatto. Ero deciso a pigliarmi con lo scooter che c'è lì, però ho detto, ma lo scooter capita, se dovessi guacciarsi pesa più della bicicletta a trascinarlo, capito? Io sennò stavo prendendo lo scooter che c'è lì, bello quello scooter, 850 euro, è bellino però a voi mi sono capito, no, se si ferma a voi si paga che cosa, a finire poco pesante. Infatti, e poi con quello ginnastica non ne fai, invece con la bicicletta fai ginnastica fai anche. Infatti così. No, ha fatto bene, ha preso la bicicletta, va benissimo. Da, va bene, è giusto che è troppo gioca, è troppo gioca, certo. E poi è completa, c'ha tutti, c'ha anche lo stoppo, le frecce, c'ha. Sì, cazzo, boh. Sì, è completa di tutto, è completa di tutto. Non è come quelle che vendono qua in negozi e cose. Quella lì è completa. Infatti, ma infatti ho visto che, cazzo, però i nomi sono fatti in bagaccara, ma la giusto. Una normale, cazzo, la giusto. 1150 la voleva, quello di via Bugino. Cazzo, la bicicletta è normale. Boh, è elettrica, però, cazzo, con la batteria su di dietro, sul bagagliaio. Sì, già l'ho vista, sì. Già gliel'ho vista, l'ho chiesto anch'io. Ma già gli ha dovuto di negozi, ma già di questa non bei questa di noti. Cazzo, un bel caro visto, è la piazza, è il suo teleportatore, è caro lo stesso, Poi si è guardato pure a coso, quello che vicina a Europini, in Pedralieta. Ah, tu altro, beh. È come te la farmacia. Allora mi avete visto di via Napoli. Se via Napoli era la matessi cosa. Allora, cazzo. Ma la giusta, cazzo, ma niente. Così che, vabbè, è comodo magari perché l'ha preso qua e se dovessi esserci qualche cosa, magari è vicino e tutto altro discorso, per quello magari è conveniente. Per la garanzia e tutto quanto è conveniente, solo che se la fate in bagagli, sì, magari costa 450 e la fate in bagagli 800. Minimo, chiaro fine, per carità, ma vabbè, grazie la Delini, fai isso, capito, grazie la Delini, e grazie a non ti ho sentito, ma in Libia è morto. L'ho sentito ieri nel PMR, l'ho sentito, che stava parlando con Antonello, stava parlando, era giù la Sadiva Vida. Oh, e PMR in treno, già va bene allora. Penso di sì. Io in Chivi già entro, ma entro così, no, tanto di coso. Ah, non ha sbigliato tutto, Ah, no. Lasciamo bene quanto, io sto bene quanto. Sì che si può parlare, in 27 parliamo. Anche quello là c'è cose da parlare, farlo. Sai che... No, la concessione è una cosa da giù bagata. Insomma, può capitare qualche volta che va a tacchi, ma è dritta la cazzo, ragazzi, non giocava. Ma poi mi piace più parlare qua in cosa, il 27 e tutto. Ma il 27 non la sta accendendo più, Graziano, solo il PMR, vabbè, vuol dire che... Cazzo, adesso si è lamentato con Luca, dice che non ce lo trova mai nessuno, ma non trova mai nessuno, noi ci siamo quasi tutta la sera, e lui perché non entra il 27, il PMR, ma io non lo tocco più il PMR. Infatti lui è abituato col portatile al coso e non si dà la briga di attaccarsi, vuol dire che paga che cosa che non hanno. Non si provi a attaccare l'apparecchio della 27? Perfettamente, li pensa. Vabbè, ne sarà lui cosa fare, vuol dire che a lui non interessa la 26. Allora si fa PMR e se vuoi fa. Infatti, ma se attaccassero la 27, ti intendi con la 27 qui. Per carità, vabbè. Vediamo un po', ma Chisio, non credo che sia ancora in campagna con quest'acqua, Quando mai iniziate veramente a tanti di sì, ragazzi, in campagna? No, va bene a vedere, si attraversa dritta la serra, ma non è in docca, Infatti, se è dritta la serra non è in docca, no. Purtroppo, ma se prendeva così, fu un umidità gli ossi. Vabbè, meglio si fa la sentire fra poco, va. Almeno 5 minuti, e tira a campare, cosa vuoi fare? Per carità. Ah, già che ho visto ieri, è già tra le segni. Ah, Francesco Saccaramento, quello di Signori. Senta, ah, dice che va tutto, dice, ma senti, non vedo mai nessuno, così che si è tornato a cazzacciare tutti per stare in cazzoli. E se che noi ci fissiamo me, la sera, cioè, la sera ci siamo, cioè, e dalle 6 in poi, fino alle 8 c'è sempre gente. Dici, ma è attento, ma ci vuole, si rompe mai nessuno, dice, allora ci torno a cazzacciare, cosa l'altro, fa quella roba cazzacciata, dici, non c'è più nessuno, dici. Ma io, dalle 6 in su, è sempre acceso, ma si chiama già ciappaglienti, mi devo che se no a risinco, di che mezzo, certo, da dove ti faccio pagare qualcuno, si chiama già finito di gente. E me ne facciamo, ci ha chiamato. Ma così anch'io chiamo ogni tanto, capito? No. Tu oggi ti ho chiamato che erano le 4:10. Oh, dottore! E torni il luogo, però ti ho chiamato la pericola, si è acceso. No, l'ho acceso che erano le 6:15, l'ho acceso. Perché stavo facendo fuori con quella tenda e poi ho la giù da fada e me ne sono entrato da dentro. No, io l'ho acceso presto, però, e allora ho acceso il computer e stavo guardando. E così via, capito? Però se faccio, proprio su fatti facevano male gli occhi guardando questo computer. E allora ho detto, ma adesso lo spiego, lo spento. E mi sono fatto mettere di da parecchi. No, io mi piace atteso, però ho quel programma da ascolto. E ce ne sono due, tre o quattro di cose della 27. Ce l'hanno anche a Napoli quelli. Ce l'hanno anche a Napoli, ce l'ha cosa da dunque dalla telecomunicazione pure ce l'ha, perché le lì. L'899. Mentre che l'altro c'è il RC 2000, ce l'hanno dappertutto in Italia, così che quello di Napoli ne vuole 125, ne vuole, e come si chiama il CRT 2000, ne vuole 125 quello lì. Cosa io non l'ho visto a coso, costa sulle 100 euro. C'era sui altri prezzi, però mi sembra l'unico che di meno che 119, però ci sono le spese del trasporto, gira e gira 125 arriva o cosa l'altro là. Ma è bello quello limito, quello è bello, il 2000 è bello veramente, già è bello quell'altro che sta dicendo l'899, ma il 2000 è bello, Lo so, ma rimane piccolo, è fatto come il coso del PMR, è fatto tutto da fatto, da coso. Buonasera, chi è avanti? Ciao Mari. Oi, ciao Lu. Non mi così. Ciao, Mari. Già siamo in città di abbastanza, e a Puglia, caspita. Buonasera anche a lì, comunque, Luca. È meglio, Mario, mi è stato trovato da qualche video, Luca, sì. Cazzo, è bello, Luca, babbo buioso, che ti sfido, che ti voto. Dugna viso, piaggio pieno, facciamoci da voi le ricattello tutto. Ah, che mi pierete tutto il telefono, mi pierete. Aspetta, vabbè, te ne fa uno unico, ma non può le ricattare tutto. Vabbè, la gatta è tolta, ma parla di Sergio Mario. Forse al telefono. anche stamattina mi ha... Oh, stamattina ho telefonato io, però, E dopo mi ha telefonato lui e dice, adesso ti mando un video, e me l'ha mandato. Niente, io sto guardando e vabbè, e almeno si svaga, dai, che è lontano. Qua magari trova più gente, là magari sono per di solo Lubarense e basta, hai capito? Poi lì sicuramente vestire l'aria pura, noi come qua, no? Lavora, ho fatto un viaggio, ci lavora e guarda sul viso. Lavoro è lavoro, Se il carta qua, l'aiuto, la sempre fermo. Sembra così, ma in casa ci vogliono soldi, carta, acqua, luce, vita, il cazzo, vivo di là, cazzo lo finire, come ti fai? Ah va, non è scinto a farci il tuo travaglio, è giusto che sia, che non che se lo fosse. E la poi la chitorra è un travaglio che forse non vogliamo fare tu e ci combineremo che vogliamo fare tu, capito? Perché già lavora là, poco a poco, sempre meglio bicultà che a mezzo. Sì, infatti dobbiamo fare anche un lavoro assieme quando rientra, un lavoro che abbiamo chiamato, urgente. Oh, molto lungo? No, non è molto lungo, sarà brutto, fai 3-4 giorni. Vabbè. Noi questo che abbiamo forse è molto di più, adesso è da vedere quando rientra, vediamo un po' cosa combinare. Quando c'è bisogna prenderlo, anche se poco, disabilarlo e cosa vi va, lo puoi stare così in girondolenti o ti manda a rubare, no va bene, no, ma come ti fai, senza di lei stai male. Ma vabbè, io già per esempio con il computer, da poco mi fa più, con l'altro qua che ho fatto la linea di SL, qualcuno ti ha fatto guadagno, non so se te ne da pensare, perché la linea è come qualcosa, con le mani in mano te l'ho visto, non c'è poco. Ma è meglio che sì, meglio di contare che abbia da lui, infatti anche tu hai andato da fare allora, almeno sai qualche cosetta e sei tranquillo, capito? Dore! Giomari, sono un attimo al telefono, entro subito. D'accordo, dottor, mi ha girato che era il telefono, così è bello, per carità. Ora fammi che vengi, uia! Per farti, se non mi sto con le mani in mano, da tempo stesso devo fare qualcosa. Per farti. Poi a Luca se qualcosa da picchiava, a darti la mano, poi non c'è mezzo, dai. Andiamo, passiamo. Certo. Se ci avessi entrato un'altra persona, io ti chiama qui. Lo credo bene. E vediamo là, vediamo un po' com'è la situazione. Stiamo facendo i conti noi pure, capito? Io non mi devi dare il domani. Guarda la gioca, la gioca. Infatti ho chiesto a un padre di questo mio amico, no? Di fare i conti. Ma non sono problemi, devo andare il 5, non trovo. Andiamo, facciamo un po' di domani. Così è, e poi magari un po', ma la mangio. E la tavola a freddo, quella che è non cioè, non è mai buco magliardita. Uno ci deve dare da fare, non può stare così sempre a zonzo una parte all'altra. E queste sono cose che non puoi fare benissimo, sia per casa sia anche per te. Da ciò che erano quelli, anche io lo andavo sempre. Adesso magari no, non ci vado perché ho aspettato, magari tipo a Castiglia, già che si gaggiava a torra, se mi cavate tanti che si fratture già un due, come fai? Se no ci andavo molto spesso a ciocca miunga, anche a funghi andavo, per dirti no. Uno bisogna andarsi da fare, per cui è anche meglio anche per lui, dai. Ah, vabbè, non è andato, non conviene, questo è il colore. No, questo che sto andando io già 76 anni, ma tu mi dire, ma non è più come prima, la fanno. Bisogna stare attento perché io ho avuto quello che ho avuto, lo sai. E per cui devo stare attento camminando, ecco tutto lì. Magari c'è un sano che va tranquillo e prima andavo andavo pure a Zora, di noi che andavo andavo in compagnia ma andavo anche da solo, certe volte lavorando la sera come uscivo dal lavoro quando pioveva pigliavo la pastiglia mancava sempre la giocata, poi ho fatto un po' di gioco a casa. Un anno, un bel anno fa, siamo a piccare, a corso, a Battistentino, di Balmato era. Allora, dopo il Balmato l'abbiamo troccato di corsa, la montagna, dopo siamo parati sulla bara a Osciammare, no? E non tirava il becchetti, però si è pesato il mare, per cui non avevo fatto niente, però si è pesato sotto una rocca che era io, avevo fatto il fuoco. E se siamo dormiti, burumazzati, li pisemmo, sta facendo, abbiamo visto il tabarare, di cosa, tu bianco, ma sarà gioca che sera, ma io non ho visto mai gioca così, non ho visto mai, minuta, ma era piena. Cazzo, se la tira di scegliere, cazzo, ci devo firmare i capelli, cazzo, si può immaginare, è la maglietta. Se mi sta giù quasi una chita, cazzo, sempre bagnando di gioca, cazzo, ma cosa gioca in fila? Da poi è passata la volta e l'ha distrutta tutta ieri, ma vera è passata pure ieri la gioca, però sono mezz'anni, dai, non come stava a farlo, finché giocano, a che tutti si accadono, a chiamare dalle tutti. No, ma non è più come prima, io per il conto facendo qua, quasi 20 anni, quasi 30 anni qua, qui la gioca, ma vanno per tutti, sì, solo quest'anno è tutto per mangiare, prima si è la gente, tutte molte persone qua, tanto non fanno una volta cose, credo importante, non fanno una volta le pietre, la gaspara, eravamo la macchina. Bisogna andare, quando può andare, bisogna andare e fa casa, è tutto buono. E poi se viene di più, si può venire pure, a chi no, io non ho visto di un mese, ma se... Certo, da voi ci avete stato un mese mangiando fuori di gioco, ragazza. Adesso, cazzo, gioca a vera che si rocco, ragazza. Ma un bene. Però a voi la ne sfrutta, pure la crea ne sfrutta, che pure la si muda, pigliava, ragazzi, non puoi immaginare. Dai, con questo capo, a chi, gli amici, tutti i gatti, no, hanno abbassato la voce e allora andavano tutti a chiedere. Sì, era mai sentita, fino a poco gioca a chiedere, ecco qui, non si dà. Eppure, io che la batte di carica, mola a fare in questa zona, non batticavo un malessere. Andavo dappertutto, ecco, pure a giocare a chiedere, sono andato, puoi immaginare? Io mi ricordo qualche anno fa, sono andato, lì, da solo, in moto. Tre volte ho fatto quasi a giubilea di un Brasile di campione, a quanta mi avrà salito. Ma bisogna andare, qua pure a te, a queste voci, a Finocchio, e ora, certo, a Finocchio va giù, dottora, ma no, a vedere la campagna, avere una campagna che non la bollino mai, certo, è abbandonata, però che buono Finocchio, certo, è fascia dura, certo, e dobbiamo noi, abbiamo, o a ragione, o con Edo, come Biglieri, se le fanno le bucce del piene, la poi tagliamo a pezzi e se le poniamo in frisa, capito? Oppure se le mangiamo con l'uovo, tanto fatti i minestroni, mi sembra un po' di filocchetti in me, tanto c'è che è buono. E appena avremo un bel ancora in frisa, se puoi immaginare, per dirti, no? Sì, certo, quello che fanno quello che fanno, io guardo da poco in frisa, guarda, ho fatto un po'. Tagliato, era un rubo dello stesso. E vabbè, dai, Dio Maria, io mi aspetto 10 minuti, non ancora faccio una bella vita, anche il freddino qua, oggi c'è una tappetta, ci sente la dopo, dai. D'accordo, ci sentiamo dopo, non è acceso qua, dai, vediamo un po'. Avanti, chi ha bussato? Donna Gana, chi c'è? Sore! Allo? Ma Maria, io sto uscendo a prendere la signora, ero parlando con Battisti al telefono. Stavo parlando. E mai la chiami di buona signora. Ci sentiamo dopo. Sì, d'accordo, dottor, fai pure tranquillo. No, mi sono svegliato alle 7, sono andato lì là, ma c'era un freddo, mamma mia. Beh, hai fatto bene, mi sei caldo, tanto la giornata è un po' umida, questi cosa fai in terra? Oh, io dopo pranzo mi ricurco, un'oretta, certo. Però mi riposo, ormai sono abituato così tutti i giorni, salvo magari non c'è gente. Però mi riposo sempre io, tutte le sere dopo pranzo. Fai bene, non facciamo c'è freddo davvero, cioè, alza parte umido che c'è fuori, c'è la nebbia adesso. L'umidità allora, l'umidità fa più male che quando c'è freddo, certo, l'umidità fa male, ma... ok. Sì, io stavo guardando adesso, mi ha mandato un video Luca. E prendi lo spavaldo e prendi i continenti. Sicuro. Ma quello che c'ha più freddo Luca che noi, a tutti i dinni. Ancora fino a che fa un bel ancora dito grazie. E meglio così, se c'è da lavorare che ne ha parecchio per 6-7 mesi già va bene. Il brutto sono se non ci prendete da fare, o che non lo paghi, ma purtroppo già l'ho visto come sopra, ci sono le cooperative, subappalti, quindi è un casino. Si è sempre la fregatura. Certo, quando sono questi soprapparti così, per carità, cazzo non lavora, cazzo non si baglia, ma cazzo mai, a che punto mi arrivi, cazzo. Ma poi fuori dice, apri dai di là, cazzo, si buca a capo in terra il mongo. Cazzo cos'è questa cosa? Chi mangia solo tu, me io pure devo mangiarmi. Ma ce ne so parecchie così. Si sfrutta uno e all'altro, gatto, e invece mangia a 4 galassi, capito? E noi moriamo di fame. E appunto poi quello. È un bel casino diventato, un bel casino. Per carità, a che punto siamo arrivati, gatto? Beh, grazie, lo hai sentito? No, sto per entrando, figurati tu. Non lo sento per niente. Oggi, perlomeno. Magari stava facendo roba. Cazzo, in realtà come sei andato in Sciumburo. Carità, dai. Siamo andato bene. Vabbè. Ognuno vede un po' fare quello che crede. E la ragione, preghiamoci la salute, dai. Ah beh, quello sì, quello già è vero, preghiamo la salute, e stiamo come stiamo bene, per il momento ancora. Eia. Oh, poc'anzi c'era uno che stava fischiando ogni tanto, rispondevo, non mi diceva niente, allora mi ha mandato a quel paese. Fatto bene. Vittorio è andato a prendere la moglie, la mamma era entrata a Bacchisio, Bacchi si è pigliato un bel di freddo oggi, metteva, e allora il caggio è un muro. Oggi c'è veramente freddo, davvero, mi stavo pisciando io stamattina dal freddo all'Inam, figurati tu. aspettando a fare la fila. Poi quando sono uscito fuori, ha finito di piovere, dopodiché è ripreso, tutta la mattina così era. Ogni tanto, stavate ogni tanto dava una bella scarica, già era tutta la notte per neva. Il comandante ogni tanto richiudeva la carica, cazzo rifette la fila, e sempre bene, piano piano sempre bene. Ma va finalmente la parte vostra, no? Sì, è tutto pieno di nebbia adesso. No, che nebbia, non finì, però è sempre rosinente, dai. Udiente. Però è sempre bene, piano piano, ma è sempre bene. E domani pure a Porto Eva, Speriamo che si cambi domani mattina un pochettino almeno. C'è proprio nebbia, umido. Quando diventa le ossa è un casino. Rimaneva in caldo, che senso mi fare? Rimaneva in caldo, siamo tranquilli. Dal caldo così, al freddo di colpo, un bel casino. Il corpo non si abitua per niente, c'è di tutto, mal di testa, mal di ossa. Stamattina facciamo male tutta la gamba, da su fino a giù. Addirittura. No, io stamattina già sono uscito, però ero in macchina e sto passando due volte alla coppa e basta. Tutto mangiava, ma stessi mi stessi due anni, per cui prendo freddo non ne ho preso, per cui ero tranquillo, dai. Sì, perché in macchina, ma se vai a piedi, c'è una bella passata di fresco, c'era. Appena posso andare a pigliare un mare lì, va a visitare la regia e basta, cacchi butti a burro, lo sempre, appena. Se magari è bella giornata, magari a piedi magari si può andare, ma se sta più vigilando o in macchina e basta, così che certo magari tu sei a piedi, così che devi per forza andare a piedi e il freddo lo prendi. E già un grido, sono uscito alle 7 del mattino stamattina per fare la fila all'INAM. Sai che ho trovato ieri mattina a Piazza dei Signi, a Sacramento, Francesco, e ha detto che è tutto accattacciato, ogni tanto disattendi e non per macurani, ma allora sono accattacciato tutta di. Picca, adesso un giorno sento Sacramento, non l'ho neanche più visto addirittura, non so l'altro. Ha visto, ho staccato di roba, però ogni tanto disattendi, ma non c'è nessuno, dici che dovrei studiare. La sera magari, la sera già ci trovi qualcuno, dai. Basta chiamare, c'è un 23-8, qualcuno c'è sempre, perlomeno. Io se sono a casa il 23 si è acceso qua, e se chiamano gli rispondo. Se ti chiami io ti rispondo. Certo, durante il giorno raramente, qualche volta verso mezzogiorno e mezzo alla una c'è qualcuno, ma 5 minuti però dopo spariscono, però durante il giorno non c'è quasi nessuno. Sì, poca gente c'è già, lo sai, ormai. C'è gente sul 23, sul 10 o sul 5 e basta, il discorso è quello. Sul 10 non ci sarà più nessuno, e sul 5 nemmeno, così che adesso già vengono sacchi, ci siamo sempre noi sul 23, per cui già ogni tanto qualcuno già entra là. Ogni tanto, non è sempre. Io certe volte magari mi sento a parlare, magari non entro perché non mi viene voglia. Chi mi viene la gana, va bene, di noi hai corso il mondo. Ah beh, quello che è vero. Non è più come prima, no? Lui è passato a burlagana. E PMR, e a me è morto PMR, per cui solo a 27, Grazie alla gente in PMR, c'è cosa che entra dopo pranzo, perché non c'è la 27 più che altro, Quindi, dopodiché, ogni tanto qualcuno già entra. No, adesso l'ha stato, no? Adesso l'ha toccato più, no? Non mi deve la mascola garatta, per pure la macchina di carro, no? Prima con carri adratti, e adesso l'ha stato, è brutto. Non mi ha acceso più, forse non accenderò più, e c'è l'altro, non venne su una macchina, si vive più poco, per cui mi basta la 27, va bene, quando ci sono, piacciono, quando c'è nessuno, pazienza, cosa vuoi fare? Sì, perché gli altri abbiamo altre cose più importanti, va. Sì, c'è Graziano che entra in cose in PMR, c'è Graziano, c'è... Cioè, insomma, che non ce ne sia. Basta usarlo, il PMR ogni tanto. Qui c'è sempre accesa, ma qui se esco me lo porto sempre appresso. Ma lo faccio anche te mattina. Capito? È più malleabile da usare, capito? Dopo ti passeggio e parli con chi vuoi. No. Sa questo, che magari c'è quello che lo sente, c'è quell'altro che non lo sente, cos'è l'altro per cui non vale la pena, ecco, perché non lo sento più per quel motivo, no? Si passa almeno la 27, se l'altro ci sentiamo e anche oltre, per cui va benissimo la 27, guarda, se sente si chiacchiera, quando lo fa niente, e mi fa. E c'è ben lascio a chi vuole chiacchierare lì. Io già lo uso sempre. Ma lo porto anche a passeggio, non so l'altro, quindi. Io quando vado nei posti qualche volta, prendo l'accendo, e qualcuno mi piace sempre. Già mi risponde. Non è che non ci sia nessuno. Ehi, hai due del modello appresso in busacca. Sto salando. Già passava su un telefonino, pure hai di voi in mano. Vabbè. Tu magari te lo metti in tasca. Giuseppe gli risponde, è da fare che lo sempre. Giuseppe gli risponde sempre quando ti chiama. Perché va bene così, vai, sta benissimo. Ok, vediamo un po' se è rientrato Tore, Bacchisi oggi Bacchisi senz'altro ha preso umidità e non ha acceso la pariccia, è tutto freddo ritto, Tore è andato a pigliare la moglie, la storia rientra tra poco, va. Sì, Bacchisi sarà in campagna senz'altro a controllare la campagna, se non si attenti qualche ladro. Ma chi se fa le serre, per cui se ne va dentro le serre non ci piove lì, no? Lui ci lavora dentro le serre, capisci? Vediamo che lo lavora. Almeno si fa la spesa ogni giorno, a posto di andare al supermercato vale nelle serre, a prendere i pomodori, tutto quello che pianta. Lui lo fa per lavoro, capito? Per cui un lavoro, sa che cosa c'è, perché la pensione non basta mai, allora bisogna anche cercare di racciumulare qualche cosa, almeno da campagna. Quello sì, basta non rovinarsi la macchina, come facciamo per padre, e con l'otto già faceva i soldi, ma se si è rovinato la macchina in tempo di 6 mesi, la potrei mettere la roba bagnata dentro. Oh, sì. E babbo ha rovinato 2 macchine, la 127 era l'ultimo. Figurati tu. L'Apollo non ha fatto una cosa del genere, perché ormai la campagna 8 non ce n'era più. La 127 era l'ultimo. Il cofano ha fatto marcire, forse mettere roba bagnata, la verdura, capito? Filiava, caricava lì, poi andava nei negozi a venderla, un paio di frutta e verdure, capito? Chiaro, c'è un po' bello, c'è un po' brutto, si lavora a fare, sono i pochi che lo fanno quel lavoro del genere, capito, Antonè? le persone grandi prima lavoravano veramente, quelli si può dire che se li guadagnavano i soldi, non la gioventù adesso, chi non vuole fare niente e vuole di là. Sì. C'era un sacco di gente che faceva anche dei lavori, diciamo, sai anche tu, già gli infermieri, specialmente facevano due lavori come faceva Gavino, la buona merito di tuo compare, che andava e vendeva biancheria, già lo sai anche tu. E io lo so, come? E a quei tempi era, vai. Anche tu, la gente prima, per portare soldi a casa, faceva qualsiasi metodo, e doveva lavorare, e come? Ma oggi, Giulia, già che non ce n'è, e poco c'è, gira, se ne vogliono fare pure, se non ci sono i soldi che vuoi tu, capito? Mentre che prima si andava anche per due soldi, si andava a lavorare tutto il giorno. Lo so, non dirò a me, prima era diverso, ormai i tempi sono cambiati, ci si dà caso, hai capito? Adesso io lo sai che senti qualche operativa, devi tu fare iscriverti al sindacato. Una volta che sei iscritto al sindacato, il sindacato ci mangia e tu ci rimetti. Se ti iscrivi al sindacato, ti tira la parivola. Hai visto a report ieri, altro il casino. Non te vai a lavorare in qualche posto che devi iscriverti per fare il sindacato. Allora mangiare questi cani morti, non saranno. Infatti, a te ne hanno suonato, dai, ti attento che sta venendo una persona, dai, ci siamo magari dopo se ci sei, ok? E io, d'accordo, allora qua, ciao. Che fischia! Beh, rientrato, sì. Adesso sono rientrato Gio Marino. Ma più bene da quella? Di quella fine. Quella che se ne entra dentro le ossa, E allora, quella che entra dentro le ossa? E di base vedo di base. Ma che? Sì, che ci deve essere pompetto, pompone, ci deve essere pompone. Ma chi se non è entrato, no? Ah, che l'ho chiamato un paio di volte, evidentemente ha preso umidità e c'ha freddo, si è messo in caldo stasera. E ha fatto bene allora. Beh, con tutta l'umidità che c'è, con le ossa un po' debole, fa bene. Li ha coprissi adesso in casa. Ui. Aspetta che andiamo via, andiamo. Ci andiamo male, noi non siamo andati, cosa va? Noi pensiamo a Rumena, poi Rumano non siamo alla base, insomma. Infatti, gli affari così bisogna fare. Allora, hai da ragione, via, per carità. Attento signor Macchisio, cambio e passo. Milo via, hai sentito tu? Sai, non penso mai di carrere passato, noi di Mugsi, proverbio. Macchi, buonasera. Ma non mi direi che sei raffreddato, ti sento, ma qualche passato in naso, stai messo. Va bene, ma chi? Acqua fresca ne aiuti, sì. Che fa bene l'acqua, ma chi? Almeno cresce l'erba, torna. Io l'avevo tagliato, hai sta tornando a crescere. So, via, ma chi, zio mio? Ma è manco da sette, se mi intesi. Vero, ma chi? Ma mi sa che a sentirti devo che avevo un goccio io. Infatti è quasi l'ora anch'io, mi sembra che faccio la stessa cosa, per cui mi sembra che la presentazione, ma chi allora? Buon presidente, sarà traduttore in casa e buona cena. Domani si cucine. Attentata signor Tore, buon proibimento di serata, saluto di casa, a domani, grazie a piccola chiacchierata, anche se breve, fa sempre piacere, ok? Riprendi per i saluti e ascolta e chiudo. Ok Gio Maria, ciao Bacchisio, ben sentito, ciao Gio Maria, ci sentiamo domani se coincide, ok? Ciao a tutti e due. Ok.